meglio. Io ho detto adesso accendo, vediamo, ma non penso che ci sia gente. Ero già sfiduciato. Visto che c'ero io in agguato, che? Sei un marpione tu. Non sei uscito da tali. No, negativo, domani devo andare anche a Tiesi, devo andare. Da solo va? No, già mi accompagna Franco, che devo andare a fare quella visita lì, che l'ho buscata a Tiesi. In Sassari non ci sono disponibilità. Siccome si è cancellato un paziente, e allora l'hanno prenotata a me. E già maledetto, ma un po' lontanuccio, però, cazzo, non è che un po' lontano è attiso. E cosa vuoi fare? Niente, Natalia. Io guarda, a Tiesi sono andato perché c'avevamo il negozio lì e andavo a portare la merce. Però dal negozio non mi spostare perché non sapevo manco dove era l'ospedale. E io lo sapevo, ma me ne sono dimenticato. Andiamo presto per quello e guardiamo un po'. Avanno uso, magari Branco usano. Ci sono le segnaletiche, mi pare che allora tu entri nella piazza e sulla sinistra mi pare che c'è la segnaletica che c'è scritto ospedale. Un cappa. Sì, vabbè, non lavare macchia paga. E infatti. Senti, a Grudonto, vai, il telefono. Sì, no, non ne ho tanto il telefono. Se lo metti, ti metti Google Maps. Lo metto Google Maps. Ehi. Invece il coso, come si chiama, il GPS. Ehi. E vabbè, avammi rubru e avvedi un po'. Da qui rubotto. Beh, te lo dice anche a voce, dice girare a destra, girare a sinistra, dice tutto. Terza uscita, dice tutto. Mica, vediamo un po', metto ospedale o Chiesi. Non è Chiesi. Ehi, Chiesi voglio dire. Già ci siamo compresi. Mi sono confuso nel confondermi. Ma se tu rimuovi a Ozieri, ti buttare a Ozieri. Vabbè, mi sono confuso nel confondermi. KK. E che visita devi fare, Natalia? Endocrinologica. Gli porto l'ecografia che mi hanno fatto, c'è anche il CD. Manco mi avrà a visitarmi, mi avrà a toccare i rimani, penso, e boh, perché l'ecografia ce l'ho già. Ma l'endocrinologo è per le ghiandole, si interessa delle ghiandole, così. E mi hanno trovato dei nodulini nel collo che mi hanno fatto questa radiografia e la dottoressa mi ha prescritto questa visita qua. Ah, ecco. E vabbè, speriamo non sia nulla di interessante. Io sintomi non ne ho. Quello è il male. A Marco, per dire, a mio figlio, ce l'aveva lo stesso anche lui un nodulo nella tiroide. E l'hanno dovuto operare per analizzarlo, perché se no non potevano analizzarlo. E ha detto anche se era benigno, poi con la crescita potrebbe trasformarsi, quindi è meglio toglierlo direttamente via. E a me mi ha detto se li tiene, mi ha detto, visto che mi ha fatto la radiografia, vuol dire che non è niente di brutto, cioè è roba di millimetri, chissà da quando ce li ho. Ma magari sono crescite di gare, dove? A me una volta che ho fatto la lastra alla gamba mi avevano detto che c'avevo dei segni neri nelle ossa, di andare subito a farmi controllare, ma è andato bisogno con la testa, sarei passati 30-40 anni. Figurati, e vabbè, ma sempre meglio un valla la visita così a Romaco, sei sicuro? Quello sì, però ogni volta che fai l'altro è cosa prendi la reazione, non fatti chissà, che ho fatto troppe l'altro in poco tempo, io capito, me l'hanno fatta dopo operato, me l'hanno fatta dopo ancora, poi ho fatto la visita, ho fatto la lastra prima, cioè me l'hanno fatti 50 di lastra. E la stessa tutti radiazioni che mi ha giubilato, magari, chi mi ha fatto i cicchi, chi mi ha fatto i cicchi, perché io la tensione mi ha giubilato un vero Maltese. Anche se adesso usano l'ecografia ed è una cosa che non fa male, però i raggi è quella la ragione. Se si mettono in una gabina che ti fa i raggi, vuol dire che la protezione la cercano, vuol dire che sono pericolosi. Io ci credo. Cazzo, quando hanno fatto quella radiazione a reti mi ha giubilato. Candi romantini di papà, perché papà non c'è di avemosi, no? Oiaia. Di tutte le maniere, per il cane ne ho preso radiazioni, ui, a nastro. C'è qualcuno che vuole entrare? Ha sentito come una camera ecco e una modulazione un bel potente quando stavi parlando, non so se era splatter o cos'era. Sì, magari roba di propagazione può darsi. Infatti, ma solitamente danno una specie di grembiule, cos'è, stagno, boh, con una piastra sopra per coprire le radiazioni. Io il piombo già lo so, è proprio soffisante, già li ho indossati, però certe volte non c'avevo nulla, per esempio con babbo non c'avevo niente, loro erano dietro il vetro, chi si pigliava le radiazioni ero io. Ecco, non c'è che tagliare della protezione, no? Oh, manco il giubbotto, ma non ha fatto nulla. Comunque io sapevo che farne tanti insieme fa male, che bisogna aspettare un po' di mesi, poi quando gli ho detto no, ma non è così, mi ha detto il radiologo, no, non è così. E altro che non è così, le radiazioni, basta che non sia neanche se blu fiume, immagini i batticisti, i noduli. Siccome quando sono andato non leggono bene quando stanno guardando l'impegnativa, non la guardano bene. Era da fare a tutte e due le anche, no? Per vedere la differenza, se c'è differenza e cosa. Ha preso e me l'ha fatta un'anca solo, ho detto scusi all'altra non me la fa, ma l'altra non c'è, come non c'è? Guardi bene, c'è, ma deve pagare per fare anche l'altra. Come devo pagare? Perché doveva specificare il perché serviva a farle tutte e due. E ho dovuto pagare, e poi vabbè, c'era la signorina e gli ho fatto un sorrisino, una cosa, ho detto ascolti, non è che mi fa, può fare qualcosa in meno, mi ha fatto pagare 20 euro, tanto ma capito, però avrei dovuto pagare molto di più, ma ho detto però si è detto non dica niente. Cura a noi che siamo in distimane di chi si ladri, cazzo. Poi l'ho detto alla dottoressa, ha detto come è possibile, lei c'ha l'esenzione, non doveva pagare niente, perché dice che lei non ha specificato il perché, ma perché dice non si impiccano, se avrebbe pagato lo stesso l'SL, perché non gliel'hanno fatta gratuitamente, non ho capito, per guadagnarci due volte, adesso li paga la SL e l'ha pagata anche lì. Sì, infatti, sono dei ladri. Questo è quello di via Roma. Ma pigliva, se vogliamo. Ah, le ho fatte da altre parti, ma ha pagato nulla. E lì hanno fatto loro lo sbaglio, perché potevano fare una lastra e farne due. Nel senso che dovevano fare due femori per vedere la differenza tra l'uno e l'altro, se c'erano differenze, eccetera, eccetera. Invece gli hanno fatto una parte solo, ho detto ha finito, può andare, come posso andare? L'altra, come l'altra? Qui non c'è scritto, sì che c'è scritto, guardi bene, ha guardato, sì c'è scritto destra e sinistra, però deve pagare la differenza, perché qua non è specificato il perché vuole, capito? Ascolti, io ho l'esenzione, non devo pagare un cazzo a Villizzo. Ah, io mi faccio la lastra e non mi rompo le scatole. Ma se no mi sputtano in tutta l'isola, perché metto l'articolo nella Nuova Sardegna, vi ho detto. E che vuoi fare a tali? Mi ha detto, se no deve ritornare, si deve far fare di nuovo l'impegnativa spiegando il perché sta facendo, fa tutte e due le anche, perché l'anca operata è una e le vuole tutte e due, come mai? Detto, perché devo fare un paragone tra l'una e l'altra per vedere se sono a posto tutti e due. Ma perché non vanno a ammazzarsi gli utti? E la ciappa di sempre i baffutti tiri di naga, capito? Se c'hai la convenzione, se tu cazzo sei praticamente all'esenzione, non devi pagare nulla, c'è poco da fare, anche quelli che per le analisi dopo 5 devi pagare, ma dove c'è scritto? Cioè se uno c'ha l'esenzione, cosa c'è tra un 5 e 6? Quello è una legge interna che ci hanno fatto loro, non è possibile. Mi pare a me, che cosa vuoi fare? Purtroppo siamo a mano ai ladri. E per non pagare sono andato da Risetti di Manzano e vedo gli enti, già tre erano, ho chiesto se avevano l'esenzione, meno male tutte quante senza esenzione. Quindi sono stato il primo, là. Allora, sì, la travolta, l'ultima volta, mi sono dovuto pagare per intero nelle analisi del sangue, l'ultima visita diabetologica che ho fatto, no? Sono andato a fare gli esami, dici che i genti con l'esenzione non accettavano. Allora, dimmi tu, vai due a Pellara, va, a Ricci. Ma dove, via Umberto? No, all'Atte Dolce. E quando è che l'hai fatta? Da poco? Sarà 4 mesi fa. Questa mia nuova, io sono andato e me l'hanno fatta tranquillamente. Invece quando sono andato due c'era un castello in mano, che non accettavano gente con l'esenzione, a tutti l'hanno fatta a pagare. E sai? Poco, non me ne sbatte niente, ma c'era stata una visita che dovevi pagare 100-200 euro, me l'avevo dovuto pagare. Sì, lo so perché, Natali, perché dice che non stanno pagando la SL e quindi loro non hanno soldi, hanno ragione anche loro, non hanno soldi per pagare personale, eccetera, eccetera, quindi per entrarli questi soldi ti fanno pagare. E infatti con l'esenzione dice che non. E da voi magari è diversa negli impegnativa e vi rabbagani, hai compreso? E guadagnano i due voti. Ma infatti se tu gliela paghi l'impegnativa non gliela devi dare. E cosa la prendi a fare l'impegnativa? Lì c'è l'esenzione, c'è scritta. A vederla ci vede ci sarà ne bigliata l'impegnativa. A tutti si hanno ritirato l'impegnativa e i soldi pure. Perché non stanno pagando, sono in ritardo, capito? Quindi loro dicono se non ci pagano facciamo pagare noi. Infatti, mi pare che ha già pagato una 20ina di euro, non ha già pagato di più, però per dire, 20 euro non mi fanno né riconoscere, ma è per il principio, perché io ho l'esenzione da tutte le cose. Ma cosa cazzo devo pagare? Beh, infatti, non è giusto. Non lo so se lo possano fare. Ma, a parte che ho l'esenzione per reddito, e poi ho l'esenzione per le patologie che ho, ma c'ho roba di 2 o 3 esenzioni, quindi non pago un cazzo da nessuna parte, eppure loro mi hanno fatto pagare. Ti immagini? Io adesso devo andare a giugno, poi a luglio mi fanno, devo chiamare quando dopo che ho fatto le analisi mi deve praticamente fare la visita. No, a me me la scrive nell'impegnativa già la data, la dottoressa Cungiu, bravissima quella dottoressa. Quindi praticamente quando vedo la data io a quella data vado e mi fanno la visita, gli porto tutte le analisi che mi ha prescritto e basta. Vabbè il mio, ma dovevo mandare l'email eccetera eccetera e poi ti scriveva per email quando, però adesso metto il telefonare direttamente perché vanno in ferie ad agosto, quindi si devono sbrigare tra giugno e luglio, dai. E anche io a giugno devo andare, avanti vabbè da impegnativa, va, ributo qui su tutti questi esami che ha giù fatto all'endocrinologo e così almeno si rende conto, vediamo un po'. Mi farà solo la visita che mi guarda con le mani, no? Perché l'ecografia ce l'ha già insieme al referto. Ma non lo so cosa ti posso fare, ma penso che sia l'ecografia, la controlli e basta, controlla quello, in base a quello ti dà la cura, o se devi fare qualcosa, se non lo devi fare, boh. Magari sono cazzate, non te ne faccio fare. E infatti, ma cosa io, da voi non faccio nessun coso, la tiroide, nulla, nessun disturbo, là, diciamo così. Con Marco sentiva nulla, solo che c'era questo rigonfiamento che si vedeva e abbiamo portato a controllo, capito? Io capito. Ma lui con una pastiglia al giorno, sento il medico di torno, gli ha detto il medico che l'ha operato, gli ha detto adesso lei non ha più possibilità di avere il tumore alla gola, io sì perché ce l'ho ancora la tiroide. E dice abbiamo, volevamo togliere la metà, poi una dottoressa si è impuntata perché ha detto è come se fosse mio figlio perché ha la stessa di mio figlio, se noi lo stiamo aprendo la dobbiamo togliere tutta perché poi se la metà che li lasciamo continua dobbiamo riaprirlo di nuovo, invece una volta fatto glielo facciamo tutto e buh, tanto metà che cosa se ne fa di metà tiro? È nuda, è infatti. Ne va tu vedi, ne hanno cavato dal macù, e due puro e sano. E non sai cosa ci ha detto? Quando ci ha parlato prima di operarlo, che c'era la possibilità che poteva perdere la voce operandolo lì. Perché ci sono le corde vocali sono dei nervi dispettosi, ha detto. Basta che gli ultimi appena appena si spezzano e non parli più. Ma i coglioni. Aspetto che sono fini fini, praticamente devi stare attento, lo devi spostare piano piano perché di colpo si tirano e si spaccano se sei tu. Cazzo. Però dice c'è una possibilità su 1000, può succedere però una possibilità su 1000, dica però cosa ci sta dicendo, state attenti, no, no, stia tranquillo. Intanto ti va a tenere in mano la cavazzina e la responsabilità, hai compreso? Sì, sì, ci ha fatto tutto il discorso, quanto durava l'operazione, tutto quanto. Marco era minorenne quando l'ha fatta, quindi. C'è quella possibilità lì, che ci sono stati dei casi che purtroppo l'hanno urtato, tra che si è spaccato. Non mi ci far pensare. Ci sono dei casi, vabbè, non ma tanto tu non ti devi operare, tu andate lì tranquillo, e non ti fate di vanno. Speriamo. Ah, non penso. Comunque l'ha fatta, ci hanno dato una protezione per mettergli per il sole, il primo periodo, la ferita perché andava al mare, quindi una protezione di quella al 50%, ci mettevamo e niente, ed è guarita tranquillamente. Mica fa. Ma vediamo un po'. Alla domani, a Baidemo, cosa mi dici? Mi hanno detto che ti toccano le mani, loro già lo sanno dove toccare, dice. Ma deve essere che non hanno lo specialista qui a Sassari, perché ho telefonato tante volte e sempre mi dicevano che non c'erano disponibilità. Evidentemente gli manca lo specialista, non va nei riduttori, dice. A Santo Brito e a Sassari. Hanno troppe visite, non ce la fanno, Natali. Oppure il personale che manca, perché non è una novità che manchi il personale. Il dottore non ve ne so più. Non ci appariamo anche più medici di famiglia. Sì, io lo so. Già, cosa vuoi ti dire? E mi toccano i scienziati a me a farmi la visita. Ma... io a Nuoro l'ho rifiutata, a me me l'avevano data a Nuoro da fare e l'ho rifiutata, gli ho detto che non avevo la possibilità di farlo, ero stato operato per cui non dovevo guidare sino a Nuoro. Poi ho telefonato il giorno dopo e adesso faccio la cosa, telefono direttamente al policlinico, vediamo un po' se me la danno, gli ho telefonato, guardi ci abbiamo un posto per domani, io non mi vado a dormire. cosa, lo grido, e così è successo a me. La stessa cosa, proprio ero policlinico, mi pare l'avevo fatto un esame che non riuscivo ad avere il la data, la ignoravo, ma ci siamo butti veggia. Guarda, il policlinico a me mi piace come ospedale, però mi ha un po' deluso il fatto che mi abbiano messo in riserva la prima volta e poi mi hanno fatto aspettare troppo per operarmi, mi hanno fatto soffrire ancora mesi, e potevo evitare la sofferenza, invece mi hanno fatto aspettare troppo, quello lì mi ha girato le scatole, ho pensato che ci fosse qualcuno in contatto, che l'avessero messo al posto mio, perché io ero lì, avevo fatto anche il primo ricovero. Infatti è strano perché loro chiamano subito, deve ci sono stati altri, molti altri casi e tanto alcuni da una base, che maledetti. O se no magari vanno per gravità, ma io cavolo, mi aveva messo con urgenza la dottoressa, mi ha messo con urgenza. E io lo grido, cazzo, secondo la gravità dovevi passare prima di tutti, ma cosa, se non era grave era cosa duia, non lo so, buio, mesi e mesi soffrendo tutti quei dolori, coia. C'era necrosi data lì, c'era necrosi rosso, e in più c'avevo liquido. E già lo so io cosa hai passato. In gamma non siamo buchi, e tu dici che è successo a me, ma te c'è un po' più del famiglio. Lo so Filippina sempre, e con tutto che poi anche dopo l'operazione sono stato a dolori per un bel po' di mesi, sino ad arrivare al terzo mese, il terzo mese mi è passato tutto, completamente, però adesso c'è tutto il corpo a dolori, non lì, ma per dire la schiena, le mani, i piedi, tutto a dolori insomma. Quella è la vecchiaia, che carogna già, è venuto con tamburori, mamma mia. Ma ci dovrebbe essere un rimedio, fare i fanghi, roba così, qualche cosa la devo fare, perché io mi muovo, mi vado anche col cane, passeggio, dalla mattina presto accompagnare al lavoro e poi sto col cane girando, faccio tutto a piedi, faccio belle scarpinate. Guarda te che vuoi va, io ma qui su va, che non mi arrivi sangue a manca e mi vado che sono difetti. E per quello cosa ti hanno detto la cari? Nulla, assolutamente nulla. Cazzo, io faccio pochi metri, cazzo, mi viene questo dolore allucinante, mi devo prima fai frutta. Se non mi boso, cazzo, non mi basta. Ma tu ne hai parlato con uno specialista? E a chi non lo usani, ci sono così. Vanno di trilatri, non me l'hanno detto loro che non mi arriva sangue alla gamba. E non è per quello che c'ho quel dolore allucinante. Ma tu la gamba fredda te la senti? No, negativo, nulla. Come la forza un po' mi fa quel dolore allucinante. Va. E non ci sarà un rimedio, scusa. E il rimedio c'è, bisogna operarti e che ti sturino l'arteria. Ecco cosa un rimedio. Chissà cosa non mi ruoni, va. Quello che ti hanno fatto l'altra volta. E l'angioplastica invece di farmelo al cuore me la fanno alla gamba. Quella roba lì bisogna fare. Vabbè, ma non ti devi fermare tu, non c'è solo Sassari, non vai dall'altra parte, o vai al policlinico, vai ad altri ospedali, se tu ti fermi in un posto solo, il padre di un medico solo non va bene, io ne ho girato diversi, dico la verità, prima di andare al policlinico ne ho girato, sono andato ad Alghero, sono andato all'ospedale civile, eccetera, eccetera, sempre lo stesso problema, mi hanno detto che tutti quanti la stessa cosa, la verità. No, ma lo sai cos'è? Quell'operazione che devono fare a me, praticamente la fanno in angiografia a San Pietro, perché è un'angioplastica che devono fare. E non ti può far fare un impegnativo a fare la visita lì a San Pietro e vedere se te la fanno. Sì, infatti, va, ma è molta cosa di là ora, di Rugute, vediamo un po'. Da voi per l'unica dottoressa cosa cazzo devo fare che io non posso camminare. Che cazzo? Perché se ti fanno quella lì torni, torna normale la gamba e puoi muoverti. Mica non puoi camminare, è feo. Almeno se dicevi, Natalia, facevo due passi e mi stancavo, mi dovevo sedere, con dolori allucinanti, non me ne voglio ricordare qua. E a me mi viene uno di quei dolori allucinanti. Io però non ce l'ho fisso come ce l'hai avevi tu mi rabbi sempre fisso. Invece io solo quando l'hai fuzzo mi viene. Cioè quando la fuzzo. Vado da qui al mercato e mi viene. Puntuale come la morte. Perché quando esci da casa non ha giù duroli, no? Però arriva a Roma a caldo e va giù duroli. Cazzo, uno di voi che mi sono abusato prima di fare azziare il garage. Cazzo di aro, dopo sento che non appari vero. Io porto a vescare, mi sedevo nel muretto perché non ce la facevo andare avanti. Mi sedevo, si riposavo e poi ripartivo. E vabbè, piano piano, se tu ti dai da fare vedrai che riesci a, nel tuo intento, Natale. Se però ti trascuri, per temi, non ti devi trascurare queste cose. A parte che non è solo il fatto di camminare, che se non passa il sangue è pericoloso, e tu lo sai. Non è solo il fatto di non poter camminare. Quindi è meglio farti controllare, farti vedere e vedere cosa ti dico. Sì, c'ho anche le ecografie fatte agli arti, che me le aveva ordinate il vecchio diabetologo che avevo io. Figurati, c'è là la mia dottoressa, i referti e tutto. Rusani, non ti preoccupare. Rusani sia il diabetologo che il medico mio, perché io glieli portavo i referti, no? Quindi lo sanno. Solo che non si sono pronunciati, cosa vuoi dire? Io sono sempre così. Tu altro dottore lo devi dire, dottore io non ce la faccio più, qua lei mi deve ordinare una visita all'ospedale perché non ce la faccio più né a camminare, mi vengono i dolori, non posso più stare così. Mi dovrebbe ordinare, me lo dici tu, Natalia, se non ci arrivano loro se ne fregano perché loro non c'hanno niente, capito? Quindi se ne fregano. Sì, quando magari vengono anche a loro queste cose, perché non è che siano immuni da certe cose, però sì, quando loro stanno bene di te ce ne fregano, capito? Infatti il dolore la Gio non la niente, no? Quando cammino. Ma si minaccia a danno. È come il coso, l'ortopedico quando mi ha visitato, gli ho detto che c'avevo dolori alla gamba, e mi ha detto, no, quello lì è una lombosciatalgia, sicuramente come sta camminando male. Ma cosa camminando male? A me me l'ha fatto vedere come si cammina veramente, me l'ha fatto vedere nella prima operazione. Mi ha detto, lei deve mettere prima il tacco e poi tutta la scarpa, non di piatto. Deve prendere prima il tacco e poi il resto della scarpa, deve camminare così. E dopo deve premere di modo che la muscolatura regga, capito? Sì, vabbè, non vanno i rudurori, già. I rudurori sono io, no? E poi per fare la visita, una volta che ti fanno la visita è quella, prima l'ecografia e da voi si fa l'angiografia, solo un ghisolo buone vedete. A chi devi entrare la sonda lo vedi in dare monitor, come è la situazione. Vabbè certo, tu intanto cerca di fumare di meno, anzi di non fumare niente. Ghisolo è vero. Quello ti rovina, quello ti chiude ancora di più le arterie. Il fumo è maledetto, io lo stesso fumavo molto, ma poi io gli ho detto basta. Ho detto basta e ho vinto io. Allora c'erano 15 anni che non fumo più. Guardate che mi sei riuscito. Andavo a pescare, lanciavo, ma accendevo la sigaretta. Arrivato quasi alla fine, mi dovevo comprare un altro pacchetto di sigarette lì alla torretta perché lasciavo le canne 5 minuti, andavo, prendevo le sigarette e poi riscendevo. perché senza sigaretta non ce la facevo a pescare. E adesso andare a pescare senza fumare mi annoia, lo sai. Devo portarmi un cracker, qualche cosa da fare, perché quando dopo che lanciavo mi accendevo la sigaretta. Il primo periodo andavo a cercare le sigarette, ma non ce le avevo. E già sono stato un paio di settimane così e poi già mi sono abituato. Sì, beh. Poi Liliana mi aveva regalato quella sigaretta finta al compleanno e me l'ha regalato una di quelle belle che la batteria dura anche un bel po'. Poi una notte mi sono guidato, devo essere gicchicciata, era gidrucata, e dal giorno non ho più toccato niente, né sigarette finte né niente. E io ce l'ho la sigaretta elettronica, ce l'ho anch'io. Uno due ne aggiungo un parate, non mi arrivate fitto. A fanguarla. Dice che anche quelle non fanno bene, la roba che tiri non fa bene. Sì, lo so, dice che quelle ti ammazzano i polmoni, non so, quella cazzo parli, va paura di quelle sigarette elettroniche, per quello che non le fumo. Ce l'ho io qua, con la batteria e tutto. Ma prima c'era il boom, io mi ricordo che tutta la sassa della piena e sono tutti sarrati che si vendono le sigarette elettroniche. A chi non ne compare già più nessuno, a beso mio. Anche mio nipote se l'aveva aperto a Portatore, c'è il negozio per le sigarette elettroniche. E vendeva lui, era l'unico che c'era. Vendeva. E poi, finito il boom, ciao. E infatti. Io invece non vengo a dirmi andare a piccare, vero, mi guarda. Raggio una gana, e invece cazzo sono un disturbato di merda. Un mese, cazzo, un disturbo cosa, alla ora ti va giù, ti sono gattato che non mi vuoi più passare. Ma in ora buona. Pescare io sono già 2 anni che non ci vado più. Già lo sai a me quanto mi piaceva, ci andavo ogni giorno d'estate ci andavo. Uscivo da lavorare, andavo a pescare e poi ritornavo a casa. Prima mi rilassavo 5 minuti. 5 minuti parlo di 2 ore, dai. Poi facevo la pescatina e me ne andavo a casa. Poi l'indomani mi portavo le canne di nuovo, l'esca già ce l'avevo in pescheria, prendevo un po' di bocconi, li pesavo, me li pagavo e via. E andavo con i bocconi. Figurati. Bocconi, cozze, granchi, di tutto, già c'era tutto lì. E una volta che tu li paghi, cosa pagavo? 2 euro, 3 euro di granchi, e ti ne esci di burumbè. Sì, per le orate quei granchietti piccolini vanno bene. Quelli di sabbia sono i migliori che ci sono. Poi ci sono anche quelli faraoni, quelli che ci sono a Portotolos che sono pelosi. Quelli lì vanno bene per le orate, sia i faraoni che... Allora, dalla spiaggia vanno bene quelli di sabbia, dal molo e dalle rocce vanno bene quelli faraoni, perché lì mangiano quelli le orate. Sì, infatti, non direi che vi mangia niente di lì. Si mangiano i ricotti e i buoni ricotti. Sì, capito, è così. Il fratello di Luca una volta gli ho compatto un'orata, ci aveva la lenza a mano, non veniva di a tirarla. Allora, gli ho dovuto dare uno straccio per tirare la lenza a mano, me l'ha tirata a mano e l'ho compatta io. Ma manna mia, al molo Asi, al molo Cattaneo. Io lo grido, ma ti faccio i manimi, sennò cazzo la lenza andaglia Maragiucci. Sì, la mia lenza grossa, a che la mia buccia, come ti filaccione, capito? La mia buccia la sallina e la mia buccia come ti filaccione, barigrongo, invece si è attaccata all'orata. Infatti, invece che il grongo si è attaccato all'orata, cazzo, io lo grido, chi sarà trattata che la cuffi? Manna mi c'era il malato, ha fatto bambambambambam, manna, se la sono andato 3 chili. I cazzi, ero qui, non ve la badia a tirarmila, anche se la lenza grossa, devi mettere qualcosa per proteggerti le mani, a chi ti misega le mani, fanno una volta intanto. E via, sto dicendo che te l'ho compatta io perché non ce la faceva di più. sono, Matteo? Sono le 7:20. Ecco perché questo sta brontolando. Alle 7 scendiamo, dai, alle 7 intanto sono già pronto. Alle 7 scendiamo, guarda bravo. Sta brontolando, perché adesso si è preso il vizio di questo orario qua, perché io lo porto prima, poi vado a prendere Elena e poi ritorno a casa, capito? E io vado ridotto. No, ma prima scendeva sempre alle 8:30, alle 8:30, dai. Adesso oramai si è inculcato questo orario qua. E come si abituano, e allora Buruvicchio è così. Buruvicchio, che duro ragazzo, andai e basta, non venuta di qua. Avaro buccia con queste due cagnette del medico, no? Perché c'hanno due cagnette loro. E andano in pari, e dai Giorgio. E a che sera che ad entrare in calore da voi? E Bodino entrano in calori. Bodi sono sterilizzati dei bassi. Ora sono bassuti. No, Maduriso, cani Maduriso. Perché solitamente questi dottori, questi sono tutti bassuti. A me mi piacciono molto i barboncini, caricato come i bianzi, sono ben affettuosi. Ma Billy ce l'ha, Brigitte ce l'ha, si chiama Pompon. Ma tu devi vedere quanto è bello, bianco come la neve, ricciuto, bello, poi ti salta addosso come il gatto, ti viene un grembo. Io sono belli questi cucciucci, sono affettuosi e tutto, te lo so già. Anche a me piacciono quei cammini, però va a fare Mughicchio ed è meglio di un figliolo. Chi ci ha acciappato davvero l'America in ogni? E a che teso no? Vanno a burugare di cavallo, fatti un gol. E allora? Questo lo stesso è trattato bene, con quello che mangio io lo vuole lui. Io se mi posso mezzo bannino, tanto bannino. Devo dare un pezzo a Edo, vai frutta. A chi tu dici su Emanuele lo vuoi Edo? Il pane lo mangia. Cazzo, se lo vedi, tipo non rimane in capo, a vedere la Germania, e non pane dolce, no, lo pane che mangio io. No, lui non le mangia, non mangia né pane né pizza, né il bordo della pizza, prima la mangiava, adesso non le mangia più. Quando era piccolo lo mangiava il bordo, adesso non le mangia più. Provate a dargli l'odore se ne va, non le mangia, è giriato, capito? E vabbè, ha compiuto 8 anni mi taglio il 16. Questo qui è buon gustaio, pura bizza, se io mangio la fainè, pura fainè, tutto questo che mangio io voglio. Io non sono riuscito mai a mangiare un pezzo di pane in creo, a chi devo dare la tangente a Edu, pura dazza. Perché sa che ti fanno male i carboidrati, allora ti aiuta. Davvero mi? Per dire, io mi mangio, ne tolgo la mollica e tutto, me ne mangio mezzo, neanche uno, quindi non è neanche mezzo famiglia. Noni, devo dare un pezzo a Edu, vai fu. A chi ti ne viene lui? Trabalita, cazzo, di nessuna, ruguri, non sono di rubarmi la mano. Allora io c'era un periodo che non ne mangiavo niente di pane, proprio nulla, né pane né pasta. Però sentivo che avevo bisogno di qualche cosa, che mi mancava qualcosa, adesso mezzo panino me lo sto mangiando a pasto. A volte ne mangio anche uno, però difficile dai, dipende da quello che c'è. Ma io non mangio la pasta, quindi posso anche farlo. Ehi, vai bene, mezzo panino. Ti mica, veniamo lì come ti posso io e ti mangi la grucia su. Ma io a prescindere da sempre la tolgo la mollica. Io non lo mattessi, ne aggiungo sempre gavata io. Già non mi, a chi non mi piace la mollica. E quindi non l'ho sempre tolta. Io la mollica, lo sai cosa la uso? A pulire il piatto prima di lavarle. La uso per pulirla. Figurati, che... No, io non... mi la gavo sempre. Io, però adesso non ne voglio mangiare pane, le fette biscottate. mi viaggi da me Natali Buc. Mi ha detto il dottore di mettermi due o tre fette di biscotto a tre latte, ci ho provato, non ha il sapore di nulla, buh. E l'ho preso con le cereali e ho detto così almeno, siccome le do anche i pappagalli, quelli lì che le calopsite, quelle di Erena, mangiano molto queste cose qua, le fette biscottate, i cracker, i biaggi di un bel, e praticamente le ho prese anche più per loro che per me, le ho prese i cereali, di modo che le rinforzi un po' perché c'hanno le uova, c'hanno 5 uova. Penso che mezzi che sono questi bisogni, nei viaggi non metti da me, duro di mamma mia, ma ci vuole una gabbia troppo, dove me li metto qua, se no io già me l'avrei presa, ma tutti. Scusa, lui si pone a fare i migliori, è tutto. Ma poi due di quelli che ho venduto mi hanno mandato i filmati, i proprietari. Uno canta la canzone della famiglia Adams, l'altro fa gli esercizi, prende la bacchetta, lo fa girare attorno su se stesso, lo fa entrare dentro un tubo e esce dall'altra parte. Tutti e due venduti da me sono. E hanno avuto pazienza e li hanno domesticati, capito? E non erano allevati a mano, i miei. Allevati dalla mamma, solo che quando li dai giovani hai sempre il tempo di abituarli, capito? Anche io non li ho presi allevati a mani mie, però tutti quanti sono, insomma, rasucci. Marli mi dava i bacini, dicevo, dopo il bacino, così mi dava il bacino. Adesso ogni tanto mi pizzica l'uomo dell'orecchio, sono mica due subisi. E a chi è come ti si abitua, Gian Buzzino, sono intelligenti mi. Intelligenti? Cavolo se sono intelligenti, Natali. Sono intelligentissimo. E mi parlano anche, dicono ciao, aiuto, vieni. L'altro giorno dicendo bobo. Avanti, esattore. Ha detto bobo. Dico vieni dai, vieni Romeo, dai, entra in gabbia, io vieni. Sono entrato da soli in gabbia mi, non è che devo forzarli, fanno tutto da soli. Li chiamo, faccio così, e vado in gabbia. Dimmi tu. Belli sono, quando sono. Ma qui non v'è lupo, non v'è giacca. Io sono messo male per il posto qua, non c'è posto. Già sono truppiti due canarini che faccio. Allora sai che ha fatto tre uvi e no erano i gallate deve essere. Non si sono schiuse. Dai 13 a 15 giorni devono stare. La giudica di più e no, non si sono schiuse. Evidentemente non erano gallate già. Ma tu non li hai visti copulando? No, a chi sei nato la gabbia, come fai a vederli? E innanto allo frigorifero, il frigorifero che va a giro. E più cilindro però è più alto di lato. Ho capito. Vabbè, Natalia, ti lascio che devo andare a portare il cane, che mi sta rompendo. Saranno già le 7:05, no? Meno 10 sono. E vabbè, e va l'orario. Allora va l'orario. Vai, vai, bucciali. Già sono qui io. Tanto non posso fare. Vedo che sta accusato, no, che va in ora buona. Dovresti uscire di più, passa a casa, qualche volta ti ci prendiamo il caffè dopo pranzo. Se non esci. Cosa esci? Se non puoi camminare, getta che sono la mia moglie. Vabbè, dai già, ci sentiamo se coincide. Ehi, allora, ciao, ci sentiamo, Natali, ciao.